ci turcini, nu be curribate, o ci turcini. Poi nu be curribate, doi ni e doi na. Mia già la sapete, curva nudeti. La mia già la sapete, doi lì e doi là. Poi padre possa amare, ma è doi lì e doi là. Lupo lupi te, mie paciure si te, lupo lupi te. Che volete la.